Dai, giusta, giusta. Non ti do a ricadere sicuro un univuro, però, Ollio. Positivo, positivo. È un casino, perché comunque non è contento. Non è contento questa canalata che fisso pagando di cosa, è casino a destra e a sinistra, insomma. Non è navigando in solo. Ma sai, cavi elettrici qua non si comprende tu un cazzo, allora tu godi, dai. Non è navigando in solo, capito? Ovvero, sicuramente non è navigando in solo. Lo so com'è lì la situazione, so, mi incammia questo cazzo a gradino, allora ti dico, so cosa sono i prezzi, perché lo so, c'ero in mezzo, quindi lo so cosa prendo, so cosa si mangia la macchina, so cosa ti costano le tasse, e non c'è un cazzo da fare, dai. E se pochendo in questa giornata, ma è pagando di suo mutuo puro, quindi, oioia, ma se gli va bene, rimangono e durano già. Già fattaci, dai, fa quel viaggettino lì, tranquillo, non gli rompe il cazzo nessuno, è a fanculo, è un'azienda che bene, bene, ancora riesce a pagare puntuale, quindi non deve neanche dire niente là. Positivo, positivo. L'unica cosa non è mai pregiato dei lavori gratis, capito? Purtroppo tutto quell'insieme c'è anche quel girettino ogni tanto, quando gli tocca a turno. Ma se che mo ti capita, 3 sotto da sta gira o 4 sotto da sta gira? Ah, non credo, da. E gli altri, scusa, Hanno iniziato a caricare il piso ceramico. Ah, ecco, a salire, vuol dire. No, pensavo ai girettini di notte lì che ogni tanto gli tocca movimentare tutti i rimorchi in ribalta, ragazzi. Per una volta a settimana a turno. E per quello, dicevo, quello sarà una volta a settimana. Purtroppo... Le danno una miseria per il cambio di carico a salire su, non basta, manco per il gasolio, se non gliel'hanno aumentato, là. Preferibile salire vuoto che salire con quella roba lì per 30 euro in più, tanto se li beve di gasolio non li battono neanche, e poi scalende sta macchina monogazzo. No, non lo parlo, è da un pezzo che non lo parlo, da un bel pezzo anche. Figurati, lo cazzo da subito questo maocca, anche perché il giorno dorme e da qualche volta lo incrocio, non mi sto rientrando, ci serrano in tra le russa, ma faccio il parole baracchino, ciao, lo accende per il giusto. Non che non so di mai, se sono questo, però che hanno giusto Mauro e Pesce. Saluto che l'ho fatto, però non vai a comportarmi. Quello segava e lo portava sul set del suo comune, su un comune, uno che mi usava il gas.